контракту анализ. Предлагаем установку новых и восстановленных отопителей по самым оптимальным ценам. Ремонт ваших отопителей с гарантией 6 месяцев. Наличие новых участников стоит. Questo qui è il Galaxy con un microfono nuovo, come va? Perfetta. E anche quello là va bene. Mi sono ascoltato in cuffia. Pensate che vada bene, già. Ti ascolto benissimo, già. Sono amplificato, faceva prima. Sono stata che ho fatto un cazzo di filo. Non ricordo che marca fosse, era un microfono a tavolo. Sì, perfetto, bella, bella. Cala gala. Ma troppo forte, sono la bassa. No, va bene. Cappa. E tu adesso il Typhoon stai usando, no? No, 2009. E anche quello va bene, pure ad uno qui c'è 2009, eh? Diamante. Grazie a zio Gianni. Anche io ce l'ho 2009 e... Vabbè, io ce l'avevo nuovo, l'ho preso, ho comprato nuovo, dai, tanto il mio non si muove da qua. Graffare non si può graffare assolutamente, perché l'ho anche attaccato ripiano col mio adesivo, in modo che non si muova, quando tiro il microfono non si muove. Sono tutti attaccati così, tranne il Galaxy, vabbè, e quello lì non si muove, no, ma così si ammazza. Beh, quel Galaxy inizia già a pesare un po', eh. Se pesa, è bisanti. Ma non so una cosa, e quando me l'hanno portato, si è rotto l'ascensore, meno male che me l'ha portato a tirare su, perché se no non ce l'avrei fatta. Sistemato l'ascensore? Sì, adesso l'hanno aggiustato. E l'hanno aggiustato subito, in mattinata stesso, perché vengono d'urgenza, capito? Quando li avvisi vengono urgentemente. E specialmente mi sono dovuto fare le scale per andare a comprare due cosette che ci servivano. E mi sono dovuto fare tutte le scale con i bastoni, ma sai quanto è difficoltoso. Poi quel problema che c'è tu già. Io per quello. Vabbè, comunque risolto, lo sai. Ma che cosa? Me la fanno a fine mese o i primi di dicembre, te ne farò stamattina. Ma com'è, anche se c'è quel problema, dopo che fanno questo non chiudono tutto, perché io avevo già fatto il pre-recover e tutto, quindi me la fanno. Alleluia, dai. Ogni tanto si sente una buona notizia. Ero disperato, Elus, disperato. Lo sapevo più che pesci prendere, perché non è che potevi opzionare andare al Ghero, Siri e cose, perché i finanziamenti erano andati tutti a Cagliari, quindi nella zona di Sassari non ci sono finanziamenti, capito? I dottori senza soldi non lavorano. A cosa stai aggiustando qualche telefono? Immagino, no, ho tolto la batteria, sto mettendo a caricare. Ci lavori senza soldi, non credo che ci lavori, allora sono così uguale. Né più né meno. Via. Casino, Casino. Qui ci devo andare a fare un lavoro, posso butto andare perché sono i muratori. Speriamo che la finiscono entro lunedì, massimo martedì. Ce l'avete il piatto doccia. E poi c'è da fare... come si chiama? Il placcaggio. E poi appena finisco vado a comprare il mobile nuovo, il mobiletto con il lavandino. La box doccia. E non ti metti lavandino col mobile? Che è? È la propagazione. Sì, sì, per forza. Ma loro te lo danno oppure devi comprarlo tu? Ma là lo devo, anche box doccia. Ve lo stanno facendo tutto a nuovo il bagno, così? No, solo la vasca. vasca ne hanno levato già. Sono la vasca, ha spostato la sala da bagno perché sotto la doccia non va bene. No, no, il pezzettino del coso, ma il bagno vabbè, già ha i suoi anni, però più di così non posso, no, perché non ci sono soldi. Cosa ci stavo dicendo, ma quello lì è il 110%? No. Ah, non avete usufruito del 110% lì? No. Quello l'ha fatto le case popolari, l'hanno fatto. Comune? Sì, ma i sanitari che hanno messo il box 12 e tutto qua che ho pagato io così. I sanitari sono quelli che c'erano prima, non sono da cambiare, anche se erano da cambiare comunque, questo vediamo, dai. Prima volta facciamo quello, poi in seguito faremo forse magari anno nuovo, cambiamo i sanitari. Kappa, e vabbè. Ma io pensavo che mi stessero facendo i lavori loro, capito, dalle case popolari oppure da 110%, che stessero facendo i lavori per tutti. No. C'è stato un guasto e sono andato a ripararlo, dai. Ah, ecco, perché ho visto che ci sono anche i punteggi e tutto quanto dall'altra parte, perché smagliate sono passate dall'altra parte e c'erano i punteggi. Sì, lì sì. Non fate parte anche voi delle stesse case, scusa. Cosa? Non sono le stesse case che avete voi. No, quelle sono, come si dice, sono di proprietà. Ah, ecco, ho capito. Quindi loro hanno usufruito del 110% sicuramente, essendo di proprietà hanno potuto usufruire. Esatto, invece sono le altre casette se li hanno fatti col 110%, perché anche qua hanno fatto cappotto, hanno cambiato le finestre, hanno cambiato le persiane, hanno fatto tutto praticamente, tutta restaurata già, sia internamente che esternamente. Cappa, è meglio così. E anche qua lo volevano fare, ma adesso ha ammassato la quota, non è più 110 ma 90%, e devi dare un bel soldi, e non tutti sono disponibili a mettere i soldi. Io non è che sia molto d'accordo, perché smorzare tutti questi soldi adesso è un casino, ma ti capita qualche cosa è un casino, perché con tutte le cose sono aumentate e non bastano più, devi stare sempre togliendo dalla banca, alla fine vieni. Lo so, certo, prima o poi finiscono, lo so, vabbè, pazienza, cosa vuoi fare già, un casino, tu pensa che quando sono venuti hanno visto il problema che c'era e hanno visto anche che stava perdendo dalla piletta, dice cambiamo la piletta e poi richiudiamo, però hanno visto anche i muratori, cioè il muratore e l'idraulico, che la perdita non era solo lì, ma si vedeva ramagnato perché l'ho controllato con la fila, infatti l'ho chiamato il geometra. E ci vanno di Cagliari, cioè, sono quelli di, hanno preso l'appalto dei lavori, cioè i lavori li hanno presi loro l'appalto, quelli di Cagliari, perché non riuscivano a trovare né muratori né manovali. Poi così me l'hanno detto, poi non lo so, vabbè, comunque. Non volevano levare la vasca, lo sai, poi hanno controllato bene e gli hanno detto che la vasca la doveva levare perché praticamente c'era una marcia sotto, anche se era di quelle, come si chiama, quelle in coso, come si chiama il materiale resistente? Non mi viene lui, fanno anche le pentole così, ma come si scheggia, dai, vabbè, comunque non... sei uscito. Cosa? Mi sei uscito un pezzettino, poi non sei uscito. E in coso? In ghisa? In ghisa sono, no, ma sono ricoperte, come si chiama, ma di smalto. Tipo porcellana. Esatto. E questo microfono se non clicchi bene non esce. Porcellana, esce a vedere se il bici ha finito. Ci riesco a sistemarlo provvisoriamente questo. Riesci a vedere se questa è una lavagna. Aspetta un attimo, il giallo. Niente. Poi se mi dia se mi mette la. Praticamente ci manca la wifi. Te la devo di nuovo aggiornamenti. Comunque un po' mi ha installati. Tu pensa 7, non fa più aggiornamenti, ma io ho un programma e riesco a bypassare e fargli fare gli aggiornamenti. Dove aggiornamenti sono stati installati? Io già ne sto usando poco il computer, uso più il telefonino, non credo che devo installare il telefono, uso un bel telefono, ma questo Starmarker mi scrive sempre che sta consumando la batteria, e Starmarker consuma un bel. Sono di TikTok, quando fai le live, c'è la magna, poi il telefono è incandescente, bolletto, non potete neanche in mano, però vabbè, non sto scherzando, vediamo se mi ha messo la wifi, speriamo, dai. Adesso tocca comprare la pennina. Ma tu fai le live e quindi ti tratti di un bello. È quello, capito, è quello già. Quanto stai guadagnando, molto? Ah, nulla, bella. Beh, mi ha messo wifi, wow, ci avvidi. Vediamo, ci avvidi, va, vediamo. Ci avvidi. Vediamo. Cazzo, contento, dai. Me lo sgancia. Ma cos'è, qualche computer tuo? È un PC che avevo qua già, è praticamente buttato, dai, ci manca un po' di tasti, però posso mettere una... Adesso ora come non lo posso permettere un computer. Allora, aspetta un attimino, scheda di rete, eccola qua, wireless, LAN card. Vediamo un po'. Tu qua si è inchiato un po' tutto. E l'ho... diciamo l'ho adattato un po', dai. Attacchiamo. Già è connesso, guarda. Fuori di testa. Di lusso. Sono contento. È veloce? No, non è veloce, però mi va bene perché mi ho bisogno per fare dei pagamenti online, capito? Mi manca adesso la Ethernet. Che sicuramente... che sicuramente negli aggiornamenti. Perché se vai a cercare i driver di questa macchina, non acciappi, capito? Ho capito, ormai sono obsolete quelli. Esatto, ma più così. Sì, comunque la fedele te l'ha trovata, perciò soldi li ho risparmiati. Ma perché? Perché sono riuscito a trovare gli aggiornamenti, capito? Negli aggiornamenti, vediamo un po', ci deve essere anche la LAN. Se c'è la LAN l'ho connetto tramite il cavo, che va più veloce. Cappa. Adesso la sta mancando la radio, vero? Perché voglio sapere se il microfono se perché cliccavo male io. No, c'è apposta già. Ah, sono contentissimo per quanto riguarda la wifi di lusso. Almeno comunque riesco comunque sì a scrivere, perché so dove sono le lettere, più o meno, là. Poi se sbaglio di qualche tasto, ma già poi ce lo trovo. Meglio così, dai, sono felice. E allora mi risparmio qualche soldino. Al momento non posso affrontare spese già. Assolutamente. L'audio c'è. Tutte cose dobbiamo installare la scheda audio, quella. Come si chiama? La Realtek. La X5 Pro della Creative. Vabbè, ce l'hai quella lì. Sì, quella sì. Quella stavo cercando io con la wifi, quella che ho chiesto su Facebook. Vediamo un po', aspetta, se sarà connette, vediamo. Ah, sì, si parte. Ecco, riuscito, quindi adesso mi sta facendo gli aggiornamenti. Perché con la scheda sua... Aspetta, vediamo. Adesso non ce ne sono più. Con la scheda, io ne ho una scheda wifi, però si connette e si disconnette, capite? E i ragionamenti tanti sono saltati, vedi, adesso me li ha di nuovo ridati, con questa wifi del computer già, invece con quella esterna no, perché sì, non c'è la, quello che sto cercando io, invece, non c'è, maledetta, che... la LAN, vabbè, andava, ma andava così già. Vabbè. Ma scusa, tutti i cagliaritani sono in quella chat dove era la live. Non dico tutti, però io ce ne sono, dai. Ho sentito certi discorsi l'altro giorno, mi stavo nervosendo, me ne sono andato per quello, quindi... io forse Torres non lo dirò mai. Perché c'erano contro Sassari, capito? Contro Sassari, se no mi cazzo se ne frega. non interessa già, e la chiudita, chi se ne frega, o io ci sono capace di cagliare in merda. Ne è entrato uno l'altro giorno, ha detto, ditemi tutto, parlate di male di mia madre, ma non mi dite se sono di Sassari. Vabbè, sai che corruttori, E uno gli ha scritto, non venire qua, perché se lo sono fatti tuoi. E uno ha scritto, di Sassari, quello di Sassari. Prima ne ha morsi, prima addirittura, se avevi una macchina targata a Sassari, non faceva andare a casa, ti spaccavano i vetri, ti facevano gli spizzi. Ma se la pigliano in culo. Adesso vabbè non si vede più, le targhe sono diverse, ma prima c'era scritto proprio Sassari, capito? SS, e cazzo, come la vedevano ti faceva di tutto. Lo so. E vabbè, c'è chi ce l'ha anche l'SS, anche c'è la targa nuova. Poi, come si dice? Poi magari non adesso magari qualcuno che ha una macchina che non conosce, magari gli fa il dispetto. E io mi ricordo quando veniva a giocare qua, riscortava la pulizia sino all'uscita di Sassari, di Puma, perché sennò ricuria. Lo so, vabbè. Già, tutto il mondo è paese, vedi che si vuoi fare. L'altro giorno lo stesso, la tipa, adesso non mi ricordo come si chiama, lei è di Olbia, dice brutta qua, detto che Sassari fa schifo. Ma sono lì, ma tu ti sei guardato. Tutto pieno di tossici, ha detto. E bisogna vedere che zona è andata, certo se va al corso, cazzo, se non ha bella impressione non li fai. Infatti, chi su è? Non sbuca i nidi da tutti i bassi, tu non fai altro che vedere i nidi, cazzo. Salendo con la macchina, tutto pieno di nigri era, cazzo, e tutto pieno, nei vicoli, cazzo, al bar, lì vicino al bar, da tutte le parti. Lo so. Sa che esce a vedere, sa, ma è sbagliato l'orologio, aspetta. Aspetta un attimo, cioè che mi aggiorno l'orologio che ho in casa. E per vedere poi di che non inizia a fare le pizzette. Così passo le prendo quattro, e se me ne mangio due io, due Marina a cena. Tutti i giorni te la sto prendendo. Io l'altro giorno ho preso il sushi, ma a casa non fa pigliarlo, non fa pigliarlo sempre, ci è uscito una 50 lire di costo. Ho capito già, sei troppo vicino al microfono, ho capito, 50? Sono 548 euro, roba del genere, ci è uscito il sushi, ho detto non fa prenderlo sempre, l'ho preso l'altro giorno, ho chiamato a Glovo e l'abbiamo preso, e ci hanno provato a casa, era un quarto d'ora, che sono ben veloci, e praticamente l'abbiamo mangiato, era buonissimo, però troppo si paga, è da 48 euro. Ma come fate a mangiare quella schifezza? Boh, io non ho capito, ma non ho parole. Schifezza, non si può che è buono, ma bisogna sapere cosa prendere. Io prendo gamberi arrosto, gamberi nello spiedino, con lo spiedino, anguille, la pasta con i frutti di mare, tutte queste cose qua. Però la pasta è fatta, gli spaghetti sono di riso. Ma se mi parli di sushi, cosa c'è tra questa roba qua? Lo sushi comprende tutte queste cose qua, Luca, non sei mai andato a mangiare. Comprende tutte queste cose, poi tu scegli quello che vuoi. Poi c'è pesce crudo, praticamente salmone arrotolato e dentro il Philadelphia, oppure cosa ti posso dire, quello a me non mi piace, mi nausea, non riesco a mangiarlo, quello lì mi nausea, la verità, ho provato ma non è preso più. Poi ci sono tante cose buonissime, ci sono rotoli di verdure grigliate, tutte queste cose qui sono ben buone. Guarda, io sinceramente non mi fido, ma puoi dire quello che vuoi, ma io non mi fido, capito? Già, non mi fido, no. Guarda, da poco la figlia di una ragazza che sta su Facebook ha mangiato il sushi, è stata malissimo, ha vomiti, e poi ha detto, boh, non ne mangio più. Poi lo stesso un'altra ragazza che conosco, avvelenata dai sushi, avvelenamento. Io l'ho sempre mangiato da cocco, il sushi te lo prepara davanti, c'è il bancone davanti ai clienti che ci sono dei tavoli. Ci sono i tavolini di fronte, c'è il bancone dove loro fanno il sushi, lo vedi proprio fare. quindi ci mettono il riso, ci mettono le cose, lo arrotolano con le alghe, e ho mangiato anche erbe di mare, insalata, buonissime. E la prima volta magari ti può fare schifo e pressione, ma io la verità pesce crudo non ne mangio, mangio quelle anguille arrosto che sono a volte nel riso e a volte dalle alghe, e poi mangio queste cose qui, te l'ho detto, mangio così ravioli al vapore che si mette poi una salsa agrodolce che è un bel buona, si mette sopra i ravioli e sono ben buoni, sono ravioli fatti al vapore, poi cosa ti posso dire, tutte cose così, il pesce crudo no, non le mangio. Quello sto dicendo, pesce crudo, no, pucci, no, ma carità, ma meglio morire di fame, pucci, no, non fa per me, pure, ognuno è libero di fare ciò che vuole, non è che ci mancherebbe, però a me, un giorno l'ho assaggiato, ho detto, ma cazzo fanno a mangiare questo schifo, lo sushi, c'è, pesce crudo, ma fai, va. Manco gratis l'avrei mangiato, no, non fatti per me, assolutamente, no, che già, due secondi, che vado a cambiare la maglia Olive, in più, vado a caricare questa batteria, se riesco, che mi serve, questa batteria per come si dice, per testare i led delle barre led dei televisori. Ascolta, ma chiudo oppure ritorno? Beh, dici voi tu mi tratti, guarda, così a fare orario, così magari da Poti che posso prendere le pizze. Allora, anch'io ci andavo spesso da Poti, prima. Ne parlavo un bel po', adesso sto facendo questo di sotto, le pizze al taglio. 1,80 euro lo pago, tu quanto lo paghi? 1,50? No, io le pago 1,80, aspetta, vado a cambiare la pagliolizza. Chi è avanti? E chi è avanti? Ui, come va, signor Volpe? Aspetta, riconosciuto proprio al centro, oramai ti ho risentito da poco, quindi la voce mi è non memorizzata. Allora, l'altra volta non ti avevo riconosciuto, la verità. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Vittorio Volpe. Tutto bene? Ma non c'è stata una voluzione, aspetta un attimino, avanti. Ciao Vittorio, già mi senti, sì? Sì, ti ascolto, ciao, buonasera anche a te. Ma comari, l'ha riconosciuto Vittorio? Sì. Ci siamo visti da poco, Vittorio, già. Cosa? Ho detto che ci siamo visti da poco, Vittorio. Già, so tutto che la figlia canta lì, che lui l'aiuta, e vi siete visti con Mombolino pure. Chiara, la moglie ci ha fatto assaggiare la crostata che ha fatto buona, Kappa kappa. Eia. Ma tutti i venerdì c'è? No, non sempre. Oggi non c'è. È impegnata stasera in un altro locale. Ah, ecco. Ah, non è fissa, ho capito. Va dove la chiama, va. Sì, perché lì un locale dove Marco, questo giovanotto, io lo chiamo giovanotto, ha degli impegni, a volte chiama alcuni che potrebbero essere più influenti, e quindi a seconda degli ambienti chiama queste persone qua. Ho capito, gestisce la serata in base alle persone che ci sono, là. Ho capito, vabbè, là. Giumane, tu, quando capita si va. Andava, e tu non stai facendo più serate? Devo dire la verità che io sono fermo con il gruppo, perché purtroppo è venuto a mancare il bassista e siamo sempre basso, e quindi è un po' triste la situazione. Quindi stiamo organizzando con un tastierista che fa un po' di basso con la tastiera, e vediamo un po' cosa mettiamo, cosa se mi riuscirà a cavare piedi. Però dobbiamo provare, perché il magazzino adesso è impegnato, magazzino, diciamo, questa casetta che è in campagna, questo amico che è il titolare, è impegnato facendo dei lavoretti, e quindi siamo un po' fermi, però dobbiamo riprendere. Vabbè, là. Purtroppo la vita è questa, ogni tanto ne muore uno, io adesso l'altro giorno, non so se l'avete sentito a Sacro Cuore, quando ieri, quelle due gemelle che erano già grandette, avrebbero avuto 70 anni, fatto sta che una praticamente deve essere caduta, la sorella è andata a aiutarla per alzarsi, è caduta anche lei, e l'hanno trovata una morta e l'altra in coma. Oh mamma mia, che casino, quelle sono notizie veramente tristi, e vabbè, purtroppo la vita va avanti, dispiace perché quando sono giovanissimi poi soprattutto tristezza e dolore, dispiace per i suoi congiunti. Va bene, lancio a te Luca. Sì, grazie per avermi rilasciato il microfono, adesso io vado, dai, sennò arrivo tardi. Mi devo incamminare piano piano a piedi, ci devo scendere fino a via Pasqua, fino al mezzo, e vado giù dalla 25, purtroppo lì ho un baracchino, dai, ci aggiorniamo già. Alla prossima, ciao anche a te, Vittu. Nel caso, se ci troviamo di là da Marco, se vieni, ok, ciao Vittu, buona serata, ciao Gianni, riprendi Vittorio. Ehi, ciao Lu, non praticamente serata, no, io purtroppo non è che abbia tutto questo tempo a disposizione, no, gran parte vado con mia figlia, ma l'aiuto un po', ma appunto, poi il tempo a disposizione non è di tanto. Comunque buon proseguimento a te per questa serata. Ciao, ciao Luca, ci sentiamo. Maurizio, ma qualche cantata te la fai? Sì, beh, cioè, io canto le mie canzoni, del mio repertorio, ma solamente sul tarocco non è che posso districare molto bene, perché una cosa è suonare la chitarra o la tastiera e qualche altro strumento e quindi tu canti e suoni, l'altro è cantare leggendo il testo lì, perché io i testi li conosco a memoria, ma delle mie canzoni, non quelle del karaoke. Il karaoke poi devi seguire una certa il pentagramma, capito? Devi leggere il testo lì e quindi concentrarti nella, non è come suonare e cantare. E comunque non è che va sopra a tempo il karaoke, secondo le basi che tu ti svia, ti fa andare fuori tempo. A me è successo e praticamente a volte devi o anticipare o posticipare. Sì, in effetti ci sono come si dice, delle basi che sono fatte in una certa maniera, però oggi e adesso questi ultimi che stanno uscendo sono perfette, non fanno errori, c'è qualcuno ancora che non è buona, però gran parte di questi che stanno facendo adesso sono abbastanza sincronizzate, perciò non ci sono questi posticipi o anticipi, perciò tutto va liscio, ecco, l'importante è che conoscere la canzone. Questi che conoscono bene i brani, se tu conosci bene una canzone proprio alla perfezione, no, dico, la conosci bene, non fai errori, perché sai che quei passaggi sono quelli, anche se il testo è posticipato o anticipato. Sì, beh certo, ma devi conoscere la memoria però. E vabbè, karaoke, Vittorio, è solo un gioco, dai. Cantare è un'altra cosa, cantare come dici tu con uno strumento, una cosa è un'altra cosa. Il karaoke è un gioco, un divertimento, dai. Certo, poi c'è un discorso da fare, che una cosa del karaoke è quando canti canzonette, io le chiamo canzonette queste del karaoke, se tu cominci a fare una canzone che poi nelle canzoni in karaoke, i brani, i certi gruppi musicali non sono fatti bene, purtroppo mi dispiace dirlo, ma è in me. Quindi ti trovi male perché poi le canzoni che fai tu, io nel gruppo, quando facciamo delle canzoni sono un po' arrangiate, quindi le facciamo a modo nostro, le tarocche è diversa, lì tengono il pentagramma è giusto, che segue proprio l'originale, noi ce le arrangiamo, perciò è un po' diversa là, quindi lì si posticipa o anticipa il canto. Sì, ho capito. Arrangiato è un'altra cosa, è una cosa diversa, dai. Lì si segue quella linea lì e basta, non è che l'arrangi. Anche se c'è qualcuno che magari qualche piccolo arrangiamento lo fa cantando, perché io sempre su diciamo un'app, e ci sono persone che cantano molto bene, sono addirittura star, cantano nei locali eccetera eccetera, sono già persone che hanno una certa pratica, capito? Sì, appunto, ci sono dei professionisti che cantano, adesso non io voglio vantare queste maestre, che fanno proprio un karaoke buono dove chi lo fa canta bene, non è che ce ne siano tanti, gran parte addirittura non sa cantare, fa il karaoke, fa cantare, chi deve cantare, chi è il brano, lui lo presenta e quindi quello lì canta, però professionisti veri e propri a Sassari non è che ce ne siano tanti, questo devo dirlo con molta onestà. Ma qualcuno già l'ho sentito bravino, dai, qualcuno l'ho sentito, ma ti parlo di due o tre, proprio se la punta le dita, l'ho sentito qualcuno bravino. Sì, c'è qualcuno bravino, ma è chiaro che ognuno chi fa questo mestiere ha un suo repertorio piccolissimo di cui alcune canzoni le conosce molto bene e fa sempre quelle, perché tu non lo sentirai mai quello bravino che dici tu, perché io ti conosco quasi tutti, ahimè. Cantano sempre quelle 4-5 canzoni, da lì non escono perché non ne conoscono altre. Se cantano canzoni che non hanno mai cantato, fanno pietà. Questo lo devo dire perché una volta è successo a uno, non mi sono presentato, gli ho detto: ma la conosci questa canzone? Sì, se vuoi ce la canto, l'ha cantata, ma ahimè, purtroppo era uno schianto. C'è gente che convita già per cantare e poi fanno ridere, ma comunque io la verità non ho mai cantato in pubblico così, però mi arrangio così al karaoke, sull'app mi arrangio perché si fanno i contest, gare, capito? E se ti dico che qualche premio l'ho preso, là. Quella è una cosa buona. Il karaoke poi, se andiamo a vedere, l'ho inventato un certo Fiorello, lì quando ha fatto tutta l'Italia, eccetera, eccetera. Quando cantavano alcuni che erano di una sonatura tremenda, però attenzione, lui preparava i ragazzi prima di fare la serata e farla trasmetterla in TV, presentava dei ragazzi, li chiamava, facevano le prove, sì, le prove, ma che prove sono? Lì all'istante, non escono bene, e quindi poi quello si impacciava e non riusciva più, sbagliavano, perché non si può fare. Le canzoni bisogna conoscerle bene, poi deve essere anche un po', come dire, professionista per cantarle bene, se no vai a suonare, vai a uscire fuori uno schifo. Sì, io guarda, ce ne ho registrate, quello di Fiorello e quello di Servizio d'Ordine, quello che hanno fatto in piazza, in Piazza d'Italia, e poi ad Alghero ce l'ho registrato, ce l'ho, c'ho il nastro con tutte e due le canzoni, quello che mi manca adesso lo vedo in videocassette, perché praticamente il decoder esterno che ho preso c'aveva solo un attacco, quindi non potevo, attaccavo una cosa o attaccavo l'altra, capito? Quindi alla fine me ne sono sbarazzato, perché c'avevo un bel videocassette che leggeva anche DVD, c'aveva DVD da una parte e videocassette dall'altra, era bellino, ma me ne sono disfatto perché tanto non lo posso più usare. E poi è uscito un aggeggio che si poteva praticamente attaccare lo stesso, eccetera eccetera, e me ne sono mezzo pentito di averlo fatto fuori. Sì, prima c'era, infatti anch'io, ma sai che io ho dei filmati in VHS e non riesco a trasferirlo in CD oppure in file normale. Il programma per registrare ce l'ho nel PC, però non ho, ci vorrebbe uno, non lo so, uno strumento che riesce, io non riesco a trovare quello strumento lì. Lo sai chi? Quello del corso. che vende se, telefonini, quella roba lì, quello del corso li fa 10 euro ogni trasferimento. Io mi avevo trasferito quella del matrimonio, ma l'avevo messa in CD, perché poi le videocassette si rovinano, dai, l'ho messa in CD, così ce l'ho sia in CD che videocassette. Quello l'avevo fatto anch'io, però non ho detto trasferire, sono filmati vecchi del 1975, è una pellicola 8 mm, però l'avrei voluto trasferire, farla proprio in file per avere il lumetto nella penna e me ne rimane perenne, perché il CD poi, anche i CD vanno a cancellarsi col tempo. E non riesco a trovare questo apparecchietto per fare questa traslazione. Magari su internet, non l'hai provato, io non so cosa sia questo apparecchio, però magari su internet riesci a trovarlo, perché su internet trovi di tutto e di più. E niente, io ho tutta una serie di Dario Argento, perché ero appassionato di Dario Argento, da Profondo Rosso, tutti i film che ha fatto, Lucio dalle piume di cristallo, Il gatto a 5 code, 7 code, c'erano 5, insomma, ce li ho tutti quanti, i film di Dario Argento ce li ho dal primo all'ultimo, tutti. Poi ho tutti i filmati dei miei figli quando erano piccoli e non vorrei ripristinare questa cosa, perché ogni tanto mi piacerebbe andare a vederli, capito? Anche farli vedere a miei figli. Quello è il problema, però non si riesce, ho cercato, non sono riuscito a beccarlo da nessuna parte, perché il videogiocatore che ho io non ha il VGA, ha soltanto lo SCART, la presa SCART, quindi non c'è un'altra presa che esce in SCART o un supportino che poi esce da SCART dal videogiocatore. E magari in VGA o in HDMI non c'è questo passaggio qui, quindi non si trova. Allora io ce l'ho una che fa la presa SCART, le uscite jack video e audio. Ma che com'è? In cavo? Sì, in cavo, sì, in cavo. Praticamente c'è da una parte la presa SCART, dall'altra esce con quei jack che si attaccano all'audio video, quelli colorati azzurro, rosso, giallo, capito? Sì, quello sì, quello ce l'ho anch'io, ma il problema è che non prende il PC, non ha gli spinotti RCA, quegli spinotti che c'è tu, giallo, bianco e rosso, no, quelli sono, si chiamano RCA, però il computer non ce l'ha quella lettura, capito? Quindi non puoi far nulla. Il problema è che il PC entra in VGA o in HDMI, quindi che cosa succede? Che non c'è il cavo che da una parte entra nel videogiocatore in SCART e dall'altra parte deve uscire il VGA, quindi non c'è questo cavo così. E nemmeno con dei riduttori, niente, non ci sono dei riduttori. Oh, lo cercate tutto, ma che niente da fare. Non c'erano tanti anni fa, però non li fanno più, perché è chiaro che il videogiocatore è morto e perciò quelli che li avevano comprati ormai nei negozi non ce ne più. Ma allora la GBC che c'ha roba obsoleta, ha molta roba di tanti anni fa, tu vi ha detto ai quarti questa roba qua, che non si può fare più. Ehi, mamma mia, ma entrare con il negozio però è una disperazione, a me pare di entrare in un magazzino. No, già la conosco molto bene, no, ci sono andato, ho chiesto, ma anche in internet non ho controllato, non c'è nulla da fare. C'è una piccola cassetta, se la vogliamo chiamare, che devi fare un sacco di passaggi, però è una cosa difficilina. Però mi dispiace che c'ho queste pellicole che le avrei volute recuperare. No, Tonino non ne ha, ci sono già andato. E poi da Tonino tu vai lì sembra un labirinto, è tutto pieno di casse, non è capire, non ce la fa più quell'uomo. Secondo me non sei uscito di radio, già. Ho detto, secondo me lui c'ha roba lì che non sa manco che cosa c'ha dentro. E infatti ci sono molte di più pacchi che non hanno capito chissà che cosa c'è dentro e non ha tempo. Prima c'era un ragazzo che l'ho riprovato sinceramente una volta, allora quel ragazzo lì l'ha mandato via perché non gli aveva piedi. Ma quel ragazzo era anche un po' antipatico, a me non mi piaceva tanto, cioè, faceva questa faccia strana quando gli facevi certe domande, una faccia strana, come se ti volesse quasi snobbare. No, per di più io che cos'era quel ragazzo? Quel ragazzo era un ragazzo scorbutico che non aveva il senso di commercio e purtroppo non ne poteva fare a meno perché lo aiutava in qualche modo, però alla fine tutti ci siamo lamentati, io soprattutto insieme ad altri, e alla fine si è accorto che aveva ragione i clienti che eravamo noi, che questo ragazzo era un po' messo male, rispondeva male, tu gli chiedi una cosa, dice, ma quello è, c'era scorbuto, capito? Sì, aveva, poi faceva questa faccia, non posso dire di che cosa, però guarda, a me mi era antipatico, infatti quando c'era lui andavo sempre verso Torino e chiedevo a lui, perché non mi piaceva come persona, anche il modo che aveva di fare, ragione tu, era un po' scorbutico, rispondeva in una maniera molto attizzosa. Sì, era un po' messo male quel ragazzo, lui aveva qualche problema psicologico, infatti anch'io quando entravo dicevo, mi dica, no, aspetta un attimo, lo chiedo a lui, e ma lui impegnato, vabbè, no, aspetta, non ti preoccupare, lo facevo, non faccio la cazzo, scusa l'espressione. Io non l'ho detto, vabbè, ci siamo capiti, no? E quindi è così, e comunque per tornare al discorso di prima, certe apparecchiature purtroppo non si trovano più, quindi bisogna cercare di... mi dispiace questo della pellicola perché voleva finire, come le videocassette ad esempio, col tempo vanno a... non si vedono più, tendono a... non è il videoiettatore che ha la puntina consumata o sporca, è proprio il nastro che va a esaurirsi e dà sul rosso, insomma, non si vede più bene e le facce rimangono sole. Già è vero, sì. Però un modo ci dovrebbe essere, perché buttarci via tutta quella collezione della gente che avevo speso per i soldi, me ne è scritto al club del video, me ne arrivavano 3 al mese di cassette. E ho visto diversi film, ne prendevo tanti, ma soprattutto di orrore mi piacevano. E c'ho La Casa, tutti questi film di orrore, poi di questa greffa di ragazzi che avevano fatto una seduta spiritica e questo si era dimenticato la tavola, cosa che non si può usare da sola, la tavola bisogna usarla tutti insieme, questo qui si è messo a usarla, adesso successi di tutti i colori. Sì, ma fa piacere vedere le cose vecchie di quegli anni, più immagino degli anni 70, hanno iniziato le pellicole 8, 8 mm, non è che il mio matrimonio è stato fatto con 8 mm, e quello ci ho riuscito a farlo, l'ho fatto in via a Corso Trinità, c'era un tipo lì che faceva matrimoni e quindi aveva queste apparecchiature e sono riuscito a farlo. Poi però gli avevo chiesto se avevano questa apparecchiatura così, ma ho detto no, dice non esistono più quelle prese, magari loro ce l'hanno ma non ce lo danno. Magari le usano loro per guadagnarci, normale, però in qualche modo ci dovrebbe essere, perché cioè darle tutte queste cose, c'ho Fantuzzi, tutti i film di Fantuzzi, film che fanno ridere tipo Ragazzo di Campagna, tutti questi qua, ne ho diversi di film, dai, c'ho un armadio pieno, buttarli via o regalarli non mi va perché sono un bel soldi che ho speso. Sì, a te credo, no, però aspetta, questi primi qua si possono recuperare in internet e li puoi scaricare. Si possono scaricare? Certo li puoi scaricare i film, io li molti film, io, sai, a me non piacciono i film di orrore, cose così, mi piacciono i film di Steven Seagal, Charlie Bronson, quei film lì mi piacciono, lì che sono fatti un po' come si dice, adesso non trovo il termine giusto, audace. Cappa. C'è anche Shining, non so se te lo ricordi. Questa telefono in tensione, capito? Stavo sul chivalato per cercare di scoprire l'assassino, eccetera, e mi tenevano molto impegnata la mente, quindi dovevo cercare di indovinare. Sì, anche quelle sono belle, no, a me piacciono i film un pochettino di azione, che ci sia qualche cosa di vendetta. Ad esempio, non so se l'hai mai visto, per un po' di dollari c'è stato il film di western più clamoroso nella storia del western. Credo che quel film lì sia stato il massimo, con Clint Eastwood. È famoso quel film, sì, Pugio di dollari, sì, l'ho visto. No, ma questi di western, sì, ci sono quelli che mi piacciono, ma ci sono quelli che sono pallosi, non mi piacciono. C'è qualcuno che mi è piaciuto, però di solito guardavo quelli, capito? Io ero iscritto al club del video, dovevi prendere 3 film al mese per avere degli sconti particolari, capito? Quindi mi arrivavano 3 film al mese, io sceglievo 3 film al mese, avevo fatto tutta la collezione di Dario Argento. Poi sono andato su film comici, anche su film impegnativi, eccetera, eccetera. E quindi adesso mi sono rimaste tutte le cassette, ma non c'ho videoregistratore, capito? Perché se sono il videoregistratore non so dove posso farle andare queste videocassette. Io ce l'ho buttata ed era nuovo, mi funzionava, che scemo. Funzionava, c'aveva anche la lettura dei DVD. Ho capito, no, io il videoregistratore ce l'ho, non ho visto, avevo un Philips prima molto bello, stereo, e beh, tutti sono stereo, e questo che c'è adesso è un Sanio, e più quello che non ho è il telecomando che si era andato. Però funziona bene, il videoregistratore è nuovissimo, va benissimo. Non trovo queste prese per fare questa traslazione, per metterlo in un avere il file, le metto in una penna e le conservo così, perché sennò poi le pellicole purtroppo si rovinano, non durano molto. Anche in altri di registrazioni musicali, non è quelle cassette sette, io ho addirittura non so se hai conosciuto le cassette stereo 8, ho un Gianatri stereo quadrifonico, addirittura stereo 8, che è addirittura a 4 canali, dove tu senti in un gruppo musicale c'è la batteria con 4 casse, in un canale senti solo la batteria, nell'altro canale senti solo la chitarra, nell'altro canale solo il basso. No, è una cosa bellissima, però di quei nastri così come ce ne ho soltanto uno, non ne ho tanti. Mi piacciono queste cose qua, capito? Sono da ragazzo che frequentavo questa passione. Sì, già li ho conosciuti, sì. C'erano anche gli stereo della macchina che erano quelli stereo. Ma l'hai avuto anche lo stereo in macchina? No, quello no. Io in macchina ho avuto direttamente mangiacassette normale e poi DVD e la pennina. Allora, il primo l'avevo comprato il suo stereo in un negozio a Genova, perché non ce ne hanno più a Sassari. Era stereo a radio e mangianastri. Poi addirittura nel 71 ho comprato un mangianastri sempre stereo 8, che era anche baracchino, era un Hitachi, pensa, l'ho tenuto qualche anno, poi l'avevo venduto un signore e poi lui ce l'aveva buttato, una cosa fantastica. Sì, me lo ricordo che c'era radio e baracchini, sì, che erano insieme. vabbè, allora si usava molto il baracchino, ce l'avevano un po' tutti dati in macchina. Adesso che si può usare, che non si paga più nulla, che non ci vuole più concessione, che dovrebbe esserci il boom, perché molta gente solo per la concessione non le prendeva, capito? E adesso che c'è tutto tutta questa libertà, non c'era più nessuno, tutti quanti si stanno assentando e vabbè, molti sono diventati anche radioamatori, quindi sono impegnati in altre frequenze. Vabbè, ma la radio amatoriale è un'altra cosa. Vabbè, il baricchino è scomparso perché la telefonia ha fatto una strage, telefono, anche nel telefono puoi mettere il barattino, quindi non serve a niente, però questa è sempre bella sentire. Io adesso ho avuto una serata a disposizione e mi sto sfogando tutto perché questo fricchio ogni tanto l'accendo, ma non, cioè parlare con chi, non c'è più nessuno, questo è un disastro. Te l'ho detto appunto, perché molta gente, se hanno preso la patente vanno in altre frequenze, ma comunque ogni tanto fanno cucù anche qua, qualche serata la passano qui, ma molte volte stanno là, capito? E vabbè, e comunque niente, io ho sempre avuto la passione da quando ero ragazzino, quindi l'ho sempre avuto il baracchino, non l'ho mai mollato, a dire che non l'avevi mai venduto e cose, ho sempre avuto io. Ho un apparecchio anche portatile, ma l'ho sempre avuto. Io tenevo l'apparecchio portatile a casa e ascoltavo da qui da ragazzino, poi mi sono preso un portatile 80 canali e Scarimur, quello lì andava ben bene. Quello parlavo con Alghero, Santiago 9995, arrivavo da casa. Sì, erano belli apparecchi, invece sono i migliori in assoluto. Purtroppo non li fanno più e adesso stanno facendo i ultimi. Questo sto usando io, un po' vecchiotto, però va bene sempre. Prima sì, ho avuto un Tokai valvolare nel 72 e funzionava perfetto, poi me l'avevano rubato dalla macchina. Ah, era valvolare, si poteva mettere anche in macchina. Sì, sì, io avevo il Tokai, era il 216, lo usavo in macchina, c'avevo la 128, a Bonanno la 128, me l'avevano rubato dalla macchina, una spacciatura scorta, mi hanno fatto un danno pazzesco, me l'hanno rubato. E poi ho saputo chi lo ha preso e ha passato dei guai. Io invece non l'ho messo a tutto, ne ho ritagliato le mani, anche che era un balengo chi l'ha rubato, perché c'era lo spinotto che si poteva staccare, invece ha tagliato il filo, l'ha tagliato quasi attaccato all'apparato il filo, poteva staccarlo benissimo, c'era quell'attacco che basta che con un dito abbassi e stacchi, ma comunque hanno aspettato che andassi a casa, siccome sapevano che modulavo sino a tardi in macchina, hanno aspettato, mi hanno sentito sicuramente qualcuno che mi stava tentando e mi hanno rubato l'FM500S, non ho mai saputo chi era, me l'hanno detto che avevano visto questo apparecchio in casa di una persona, ma può darsi che fosse suo, cosa ne so lui, non è che posso dire che è stato lui. Certo, se non sei sicurissimo non ci puoi fare niente, però avresti potuto fare qualche indagine tramite qualche persona per essere testimone che esso era lui. Tore, ti ricordi Tore Lai? Alla Verde, che lui l'aveva beccato, l'aveva buricato. No, quello non lo conosco. Praticamente gli aveva rubato un baracchino che lui al posto del trasformatore che c'era interno ci aveva messo un linearetto dentro e quindi lo riconosceva in mezzo a mille. E praticamente questo qui è entrato e l'ha riconosciuto dalla modulazione, lui, capito? E gli ha detto, ma che apparecchio stai usando? E lui gli ha detto che apparecchio era, e c'è chi te l'ha venduto? E me l'ha venuto un amico, e praticamente ha detto, ascolta, a me mi interesserebbe, perché lui lo stava vendendo questo qua. E ha detto, sì, mi interesserebbe, ci possiamo trovare, ci sono trovati, ha fatto vedere l'apparecchio, ha avuto una giusta, ha detto, se lo se ne andava, li chiamava anche carabinieri. Sì, a che punto siamo? Legge in Italia. Prima li rubavano perché andavano bene, adesso lui è pieno. Anche se li metti sul cofano della macchina non ti riprende nessuno perché non li usa più nessuno. Ma prima rubavano lo serio della macchina, come niente, proprio c'era era una guerra di furti delle autoradio. Poi quando le autoradio, perché si pagava una certa somma, un canone, poi quando le autoradio le hanno messe obbligatorie nella vendita sulla auto, allora non è preso, non è comprato nessuno perché le macchine ce l'avevano tutte. Prima rubavano il tasto verde della Philips, era il più commissionato, me lo ricordo, il tasto verde, non so se te lo ricordi. No, io avevo un apparecchio che registrava, Vox, non si chiamava, registrava cassette anche, col microfono, era una novità che era uscita da tedesco. L'avevo comprato, ero appassionatissimo di queste cose qua, guai, in macchina avevo un impianto serio, pazzesco.